Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Sono le 8, 18 minuti e 30 secondi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è venerdì 23 ottobre e questa è la terza parte di 24 Mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. A partire dalle 8.35 ci occuperemo del tema che sta scaldando gli animi in queste ore, che è quello della scuola. Didattica a distanza per tutti gli studenti delle superiori lombarde, didattica a distanza per tutti gli studenti del triennio, e quindi la seconda parte delle superiori in Puglia, al 50% e 50% nel Lazio. E questa discussione che si apre se è il caso di far partire tutto proprio dalla scuola. Ne parleremo con la ministra della famiglia, Elena Bonetti. E poi sarà con noi il professor Luigi Lopalco, che adesso è anche assessore alla sanità in Puglia. Se volete intervenire, l'800 24 0024, ovviamente, per intervenire in diretta, il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre opinioni, benvenute, e i vostri racconti anche. Mi ha appena scritto un insegnante via mail a 24mattino@radio24.it. Sì, è difficile, lo sappiamo. È il momento però del punto di giornata con Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno. Eccoci, buongiorno, buongiorno. Allora, ci era sfuggito nei giorni scorsi un altro ultimatum, perché ormai gli ascoltatori lo sanno, questo è uno spazio nel quale, no, gli ultimatum sono sempre guardati con grande attenzione. Te lo faccio sentire, perché è di domenica scorsa. Daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Quindi domenica immagino, domenica immagino, Paolo, chissà, che dici? Che si fa un consultivo, ma nel frattempo ci stanno altri ultimatum più gravi. Perché Conte ha detto che adesso entro una settimana e 10 giorni si prenderanno delle decisioni definitive e nessuno penserà più alle palestre. Questa è una tecnica che suggerirei ai nostri ascoltatori se vogliono entrare in politica: mettere lì un bel ultimatum, magari con la parola caducazione. A proposito di caducazione, vedo che piovono accuse, tutto sta andando a vantaggio dei Benetton, altro che caducazione. Sì. Comunque, il Domani è specializzato in questa inchiesta e dice che le colpe sono della ministra De Micheli. Ma tornando a noi, gli ultimatum del governo si susseguono, si fa poco in maniera confusa, poco si fa forse il possibile. Sì. In maniera molto molto confusa. Nel frattempo i magistrati sono a caccia lì delle responsabilità per il mancato zona rossa ad Alzano e Nembro a febbraio scorso. Ieri hanno sequestrato il telefono di Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Beh, insomma, io ripeto, dividerei la fase delle emergenze come se durante una guerra, nel momento della battaglia principale, ci fosse qualcuno nelle retrovie che va. Per me tutto ciò che è giustizia è benvenuto, però insomma, non mi sembra, sembra adeguato. Non mi sembrano adeguate neanche le parole. Ho visto Ranieri Guerra che sul Fatto dice: attenti che se facciamo il lockdown ci saranno rivolte armate. Ma insomma, misuriamo anche i termini, sarà d'accordo. I rischi ci sono, ne hanno parlato anche ieri alla Camera durante il dibattito, cioè rischi di esplosione di rabbia popolare, però rivolte armate è un po' tanto, anche se qualcosa in giro abbiamo visto tra Europa e Stati Uniti di tensioni sicuramente, ma forse rivolte armate no. Sì, comunque forse non possiamo escludere, in quel caso diremo che Ranieri Guerra aveva visto bene, il recovery europeo slitta, dicono i giornali quest'estate, ma qualcuno dice che slitta a fine anno, quindi i soldi dall'Europa non arrivano. Montezemolo sul Corriere della Sera fa una lunga e bella intervista in cui dice che se non gli arrivano i soldi di risarcimento, Italo chiude. Sì. Ma, insomma, un quadro. Adesso io non sto parlando, sì, del morbo, perché ne parleremo ancora per vari giorni, però insomma mi sembra un quadro. Nicola Magrini, il, sì, presidente dell'Agenzia del Farmaco, racconta che lui se l'è preso perché, cioè lui è una persona, perché ha parlato con un medico rilassandosi, togliendosi la mascherina, tutti e due, anzi una cosa buffa, era andato a fare un test. Sì. Il test era negativo, poi uscendo da quel test ha incontrato un medico amico suo, si sono tolti la mascherina, hanno fatto una bella chiacchierata e tutti e due si sono presi il Covid. Nella fattispecie se l'è preso prima il medico, che l'ha attaccato a Magrini. Guarda, un quadro di un paese altro che tutti quei complimenti che ci siamo fatti, che, sì, italiani, che classe, che meraviglia, straordinario, che presidente, così, tutto il mondo ci invidia, tutti ci chiedono ma come avete fatto? Beh, insomma, come abbiamo fatto? Eravamo solamente in ritardo, che è la cosa nella quale siamo specializzati, tra l'altro. Paolo, ti vorrei portare su altro, perché come hai visto a scoppio ritardato si scatenano reazioni sulla vicenda del Papa, sulle parole che ha detto in merito alle unioni civili tra persone omosessuali. Lascia stare il Papa, perché sì, è vero, ci sono molti cardinali, Leo Burke, Gerhard Müller, che lo criticano. Poi mi ha stupito che quelli che lo difendono dicono ma è stato non mal interpretato. Nessuno difende il senso delle sue parole. Il senso delle sue parole è preciso, perché se uno dice benedico le unioni gay che hanno diritto a farsi una famiglia, famiglia si intende anche i figli fatti con la fecondazione artificiale, insomma famiglia ha un senso preciso, sì, più quella parola che fa impressione. Però il Papa oggi ha ricevuto la benedizione del cardinale supremo, Papa di noi giornalisti, che è Eugenio Scalfari, quindi è contro alcuni cardinalucoli, lo dico autoironicamente, sì, però ha avuto la benedizione di Scalfari nelle sue retrovie, che è quella che è quella che conta davvero, no Paolo? Se, per noi è quella che conta davvero, certo. Che dice l'ho incontrato, questo Papa farà una rivoluzione, questo è solo il primo passo, così. Ieri mi lamentavo che Becciu non si avesse notizie di iniziative giudiziarie, ecco che PM e Vaticani hanno aperto un'indagine su di lui, sono state trovate, sembra, le prove dei siluri di quei conti australiani che a te interessano tantissimo contro Pell, sì, la Shauqi, che è l'ex donna principessa del Vaticano, dice che è stato Becciu a volere il suo arresto. Insomma c'è tempesta, a parte la benedizione, sì, di Scalfari, ma tempesta in Vaticano, sia sul tempesta, sì, in Vaticano, e... sì. In Polonia nel frattempo è stato negato il diritto all'aborto la Corte Costituzionale anche in casi di malformazione. La Polonia sta facendo insomma passi indietro adesso, sì, dal mio punto di vista sul diritto all'aborto, molto, sì, qualcosa di molto importante. E sulla cosa sulla questione ovviamente si sta scatenando, certo, una ribellione popolare, come anche normale che sia. Paolo, facciamo una cosa, io ti vorrei far sentire, ma tu l'hai visto ieri Pier Camillo Davigo ospite di Formigli, certo, a Piazza, certo, Pulita? Ti faccio sentire un passaggio, va, Carmelo, Lauricella, ce l'hai, via. Non lo so, mi interessa poco, so benissimo per essermene occupato a lungo che normalmente non sono gradito ai soggetti di cui mi sono occupato, questo però è frutto del mestiere che faccio. Com'è? Anche noi, vedrai, fra breve non saremo graditi ai soggetti di cui ci siamo occupati o che abbiamo menzionati. Quindi preparati ad andare anche tu da Formiglia a dire so che non sono gradito ai soggetti. Io e Paolo Miani non siamo graditi. Corrado, se sei in linea, prepara l'invito. Se ci ascolti, prepara l'invito. Andiamo insieme, eh? Sì, andiamo, sì, sì, insieme, certo, a dire, certo, che non siamo graditi. Secondo il Foglio, David Sassoli sta tramando per portare il Movimento 5 Stelle nel Partito Socialista Europeo. Complimenti, il Foglio, no, insomma, se lo scoop è vero, il Movimento 5 Stelle nel partito, nel Partito Socialista Europeo è una notizione. Nel PD nel frattempo è nata l'area Bettini e il politologo Gianfranco Pasquino dice che lui Calenda non piace, non per i motivi che dicono tutti, ma perché quando arriva in un posto ne vuole sempre un altro superiore. Dice quindi il giorno che arrivasse a fare il sindaco sono sicuro di dire ma non mi basta, voglio fare il presidente del consiglio, il presidente della regione Lazio. È un articolo ironico, eh? Un articolo ironico. Senti, ma tu lo stai seguendo il caso Generali? No, Generali, ho letto poco, c'è poco sui giornali, devo dire. Però allora leggete un articolo di Maria Elena Vincenzi a pagina 36 di Repubblica. È stupendo. Allora, c'è un'inchiesta sulle polizze fatte da Generali alle Ferrovie dello Stato. Innanzitutto sono sparite 66 pratiche sospette. Generali avrebbe dato 500 milioni in 9 anni alle Ferrovie dello Stato, ma la cosa che mi ha colpito di più è un dettaglio che sta nell'ultima colonna di questo articolo, per cui l'amministratore delegato, che si chiama Gianfranco Battisti, che prima era il manager responsabile dell'alta velocità, ha ricevuto da Generali il pagamento di 1,6 milioni di euro, ripeto 1,6 milioni di euro per cosa? Perché una domenica che dice lui lavorava, io gli credo, a Battisti ciecamente, è scivolato nel bagno, si è fatto male e deve essere un male terribile. Pazzesco. Perché 1,6 milioni, anch'io sono scivolato due volte nel bagno, un milione e 600 mila euro. Per chi è molto molto anziano, ricordo le vecchie lire, sono 3 miliardi di vecchie lire, 3 miliardi tondi. Voglio ricordare che lui allora era amministratore dell'alta velocità, adesso nel 2018 il ministro Danilo Toninelli del centrodestra l'ha voluto a capo delle ferrovie. Beh, insomma, seguite questa vicenda dell'inchiesta Ferrovia dello Stato Generali, perché promette bene, dici? Promette sono bene. Sono due colossi, Ferrovie dello Stato e Generali, insomma, stiamo parlando. E dovessero trovare il procuratore, tra l'altro se ne occupano dei tipi tosti, il procuratore aggiunto di Roma Paolo Iello, i sostituti Claudia Terracini e Fabrizio Tucci, che sono tre magistrati coi controfiocchi, quindi se dovessero trovare delle magagne nel dossier Generale Ferrovie dello Stato, sarebbe una cosa che finirebbe non nascosta, ma in prima pagina su tutti i giornali. Teniamo i riflettori puntati. Grazie Paolo Mieli, ci risentiamo lunedì mattina dopo il GR delle 8. Ciao Paolo. Grazie a te. Ciao. Ma sì, lo dico agli ascoltatori, un piccolo errore di Paolo Mieli, ha detto Danilo Toninelli del precedente governo di centrodestra, intendeva ovviamente Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, era in un governo nel quale c'era anche la Lega, era un governo chiaramente un po' più di destra di questo, come ovvio che sia. Didattica a distanza, dunque, per tutte le scuole superiori della Lombardia, per tutto il triennio in Puglia, ossia a partire dal appunto terzo anno di scuola superiore, e con tutti i rischi connessi. L'impatto psicologico, pedagogico, di istruzione che ha tutto questo, perché è difficile, come qualche ascoltatore già fa, sostenere che la didattica a distanza sia uguale alla didattica in presenza. Non lo è. Ci sono paesi, lo abbiamo detto, nei quali tutto si chiude meno che la scuola. Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e per la famiglia, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno. Mi sembra che lei, un po' tutto il governo a dire il vero, è schierata contro queste decisioni. Sì, sono convinta, sono decisioni gravi, sbagliate e miopi. perché, come lei ha ricordato, chiudere per prima cosa la scuola mi sembra una soluzione che non possa reggere né da un punto di vista degli effetti che avrà, né da un punto di vista del fatto che il nostro paese ha bisogno invece di restituire alla generazione degli studenti occasioni di formazione e di studio. Rischiamo di perdere intere generazioni da un punto di vista dell'apprendimento. Io sono una docente universitaria e sto pensando a quei ragazzi che hanno chiuso lo scorso anno scolastico tutto a distanza e che quest'anno di nuovo faranno l'ultimo anno magari di nuovo a distanza. Sto pensando a questa scelta anche di selezionare della Puglia, non c'è un anno privilegiato o altro, si troveranno l'anno prossimo ad accedere ai percorsi accademici evidentemente con dei buchi che faranno fatica a recuperare. Tra l'altro mi permetto anche di dire che la scuola invece è un ambiente educante nel quale le regole sono state previste in sicurezza e nel quale gli studenti possono imparare anche le regole del comportamento sociale necessario per contrastare la diffusione del virus. Noi oggi ci troviamo a chiudere in casa i ragazzi per fare una didattica a distanza che in una forma integrata emergenziale diciamo è stato meglio di niente, ma non si può pensare che quello sia effettivamente un percorso di apprendimento reale e fattivo che richiede un confronto diretto, personale, nonché una relazione tra pari. Quella relazione tra pari che non avranno a scuola la cercheranno poi al pomeriggio in contesti in cui non saranno nemmeno, come dire, controllabili e educati al comportamento delle regole, quindi avremo veramente un effetto devastante da questo viene, punto di vista. Viene fatto osservare, Ministra Bonetti lo ha fatto anche qualche illustre virologo, penso a Massimo Galli solo nella giornata di ieri, viene fatto notare che sì, è certo la scuola è un ambiente controllato, però non è controllato quello che succede appena fuori dalla scuola, sia all'ingresso che all'uscita, non è controllato quello che succede nei mezzi pubblici con un affollamento che si genera quasi automaticamente tra persone che vanno al lavoro e ragazzi che vanno a scuola. Il problema è là e quindi il chiudere la scuola fa sì che parte di questo problema sia limitato e quindi il contagio all'esterno della scuola è più difficile che avvenga, dove i ragazzi spesso abbassano le mascherine, il contagio negli autobus è più difficile che avvenga. Che dice lei? Ma guardi, è vero che il problema dell'organizzazione fuori dalla scuola in entrata e in uscita è un tema che però c'era da mesi e per il quale le regioni anche si dovevano organizzare. Certo che c'è il tema dei trasporti, si organizzino diversamente i trasporti, si usino dei mezzi aggiuntivi, noi abbiamo suggerito si faccia uso dei mezzi anche privati in modo emergenziale, si facciano turni diversi, si riorganizzino gli orari di ingresso scaglionati in modo che siano differenziati dagli orari di ingresso per il tempo del lavoro normale nella giornata. Ci sono tante soluzioni organizzative sul funzionamento sociale, ma questa è anche una responsabilità della politica. Se ci si dice che la scuola deve essere l'ultima cosa che si chiude, io questo lo affermo senza se e senza ma, credo che tutta l'organizzazione del vivere sociale la si possa fare con un qualche semplice, come dire, modello davvero di gestione del traffico della folla di persone per far sì che tutto quello che lei sta dicendo non avvenga. Anche più controlli alle scuole, Bonetti. Più controlli davanti alla scuola, esattamente. Si usi più personale per controllare, si faccia, diciamo, un controllo. L'abbiamo fatto nel periodo del lockdown. Poi io devo dire, conosco la generazione dei giovani, so anche che nel momento in cui da un punto di vista sociale noi diciamo noi ci teniamo a voi, alla vostra istruzione, per permettervi di avere un futuro all'altezza dei vostri sogni, questo è necessario, quindi faremo di tutto per garantirvelo, i giovani capiscono e sanno esercitare un livello di responsabilità molto più alto di quello che il mondo adulto a volte possa immaginare. Dice... qualcuno se la prende un po' con voi, Ministra, dice avete pensato tutta l'estate ai banchi a rotelle e poi in realtà alle misure di prevenzione per far sì che la scuola, no, potesse, che ci fosse per esempio il personale fuori per controllare eccetera eccetera, queste cose ci si è pensato un pochino meno, che dice? Ma guardi, è evidente che probabilmente nel livello del rapporto anche con gli enti locali e le regioni c'è stato qualche buco, perché se oggi le regioni non sono attrezzate per il trasporto locale al fine di garantire il movimento verso la scuola, qualche cosa che doveva essere fatta prima c'è stata. Dopodiché in realtà non è vero invece che il governo non ha pensato alla riapertura delle scuole, perché proprio le scuole oggi hanno invece al loro interno una riorganizzazione di sicurezza. Ma mi permetto anche di dire, oggi ci troviamo in una seconda ondata. Io ho sempre tenuto lo stile, diciamo, molto pragmatico, di chi guarda i problemi e prima di chiedersi di chi è la responsabilità di quel problema, trova la soluzione al problema. Oggi il problema c'è perché c'è un aumento dei contagi, c'è un problema di flusso e di traffico nei trasporti pubblico locale, bene. Allora, a questa criticità diamo una risposta. La risposta non può essere la chiusura delle scuole, la risposta può essere: mettiamoci ad un tavolo e nel più breve tempo possibile riorganizziamo i trasporti locali perché le scuole rimangano aperte. Saluto Pierluigi Lopacco, resti con noi, Ministra. Saluto Pierluigi Lopacco, che conoscete benissimo, è stato ospite nostro molte volte, ordinario di genere all'Università di Pisa, neo assessore alla sanità della Regione Puglia, che, come dicevamo, ha chiuso, ha mandato in didattica a distanza e manderà in didattica a distanza le scuole superiori a partire dal terzo anno. Buongiorno Lopacco, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Come mai avete fatto questa scelta? Allora, diciamo, come ha giustamente precisato, che non abbiamo chiuso nulla, cioè nel senso, noi abbiamo dato un indirizzo alla scuola in attesa che si trovino delle misure alternative, come giustamente prima diceva il Ministro, in attesa che la scuola riesca a trovare delle misure alternative a questo problema, che è il problema appunto di quello che succede al di fuori delle classi, quindi al di fuori delle classi prima dell'ingresso a scuola. Noi abbiamo detto almeno le tre classi, quelle, diciamo, dei ragazzi più grandi, quelle che possono tranquillamente stare a casa senza creare nessun problema alle famiglie, perché insomma sono completamente autonomi, e favorendo appunto delle azioni di didattica a distanza. Si tratta di una misura di breve periodo, quindi non credo che impatti, insomma, l'abbiamo fatto un po' tranquillamente perché non crediamo che impatti poi su quello che è l'andamento della didattica in questo gruppo di studenti. Quindi una misura, la considerate una misura ultra temporanea, mi sembra di capire, Lopacco, cioè un paio di settimane, sistemiamo un po' di cose dal punto di vista degli ingressi, dell'organizzazione e poi ritorniamo magari a una didattica mista, però con una parte consistente di presenza. Esatto, cioè, ma anche meno, nel senso che l'ordinanza prende il via lunedì, se per esempio qualche istituto entro lunedì si organizza con ingressi scaglionati o con altre misure, può anche non applicare la didattica a distanza. Ministra Bonetti, mi sembra che in questa chiave, per così dire, possa essere accettabile, se temporaneo, per riorganizzare le cose, no? Che dice? Deve essere temporaneo e deve andare nella misura della riorganizzazione delle cose. Credo che l'approccio, diciamo, che il professor Lopacco sta portando sia un approccio che dà una prospettiva di maggiore certezza alle famiglie, agli studenti della Puglia. Mi auguro che in questa direzione vadano tutte le altre regioni. Come dire, mi sono ripromessa di non dire, diciamo, di trattare le responsabilità di questo, quindi sì. Bene che oggi ci sia la possibilità di trovare una soluzione, perché il rischio Ministra, sì, direi che debba essere nel più breve e nel più veloce tempo possibile. Il rischio, Ministra, dice lei, è di un buco educativo, pedagogico, appunto psicologico troppo, sì, forte, se si prosegue in questo modo. È un tema di un buco educativo psicologico troppo forte, è un tema anche di, mi permetto di dire, anche di organizzazione familiare, perché stiamo parlando comunque certo di minorenni con una certa maturità, ma sappiamo quanto comunque è importante la relazione all'interno, cioè anche nell'ambito della famiglia. Ci sono genitori che quindi si ritrovano con i ragazzi a casa senza avere la possibilità in alcun modo di seguirlo. Mi permetto di dire che è una situazione che va ad aggravare quei divari anche tecnologici e digitali che abbiamo visto che ci sono nel nostro paese. Noi sappiamo, abbiamo i dati adesso, che quella didattica a distanza ha creato dei divari per anche possesso di mezzi, competenze digitali. Non tutte le famiglie partono alla pari, vuol dire amplificare delle potenziali disuguaglianze tra gli studenti, come la scuola deve essere quella possibilità di riparare le disuguaglianze. Ben venga, voglio dire, a questo punto anche l'intenzione della Regione Puglia, ma spero abbiano tutte le altre regioni, di rivedere l'ipotesi di chiusura e di collocarla, se proprio necessario, in una fase temporanea. Quello che io spero è che tutte le altre regioni vadano avanti nel organizzare le cose senza dover arrivare a queste soluzioni. La ringrazio Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia, per essere stata con noi. Professor Lopalco, resti con noi, abbiamo una pausa per il traffico, sentiamo un paio di ascoltatori e poi riparliamo con lei. Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, guardi, dunque, io mi permetto, diciamo, di intervenire semplicemente per raccontare un po' l'esperienza della didattica in presenza e l'ostinazione, diciamo, della contro e l'avversione contro la didattica. Se puoi in maniera compatta, Giuseppe, che è già una premessa pericolosa. Allora, ci ho premesso, le dico semplicemente questo. Nella scuola di mia figlia fa il quinto liceo, il liceo di Roma, hanno scelto chiaramente di optare per la didattica in presenza. E ciò nonostante hanno quindi dovuto attivare tutte delle normative di sicurezza, tra cui il fatto di tenere le finestre completamente aperte, di tenere, diciamo, la mascherina tutto il giorno in classe. Va bene, questo va bene, ma io ho sempre pensato che debba essere una soluzione temporanea. Andiamo verso l'inverno, le temperature scenderanno, non c'è più la garanzia, diciamo, del range di temperatura legislativo per stare dentro le classi, e c'è un'avversione alla didattica a distanza. Io dico semplicemente che la situazione è critica, siamo in una situazione molto critica, non capisco per quale motivo non si possa intervenire su studenti estremamente scolarizzati, perché parliamo del quinto anno, l'ultimo anno di liceo, di poter utilizzare temporaneamente, come anche sottolineato il professor Lopalco. Sì, guardi Giuseppe, il punto è chiaro, e già che abbiamo qua una persona che si intende anche di queste cose dal punto di vista medico, professor Lopalco, il tema delle finestre aperte, là viene veramente da dire, forse più che sui banchi conveniva investire, sui banchi singoli conveniva investire in un sistema di ventilazione delle scuole, per tanto per fare un esempio. Professore. Ma sono d'accordo che il sistema di ventilazione è centrale nella prevenzione di questa malattia. Il problema è che un banco si può sostituire in un mese, un sistema di ventilazione prevede degli interventi che durano diversi mesi, cioè la progettazione, il montaggio, i lavori di edilizia, cioè fare un sistema di ventilazione veramente efficiente. Soprattutto in molti istituti scolastici italiani che sono ricavati da vecchissime strutture, sì. non è per nulla semplice. Quindi purtroppo la vecchia buona abitudine di aprire la finestra per cambiare l'aria deve essere utilizzata. Parla facile, professore, lei dalla Puglia. Noi qua a Milano già adesso tocca chiuderle perché inizia a far freddo e non ci riusciamo. Sentiamo Marco dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, senta, io volevo soltanto intervenire per il fatto della didattica in presenza a tutti i costi. Secondo me ne hanno fatto una questione di principio, perdendo un po' il contatto con quello che è la realtà. Se semplicemente si organizzasse una didattica in presenza alternata, in modo regolarizzato, insomma in modo organizzato con la didattica a distanza, non perderemmo tutto il discorso della socializzazione, il discorso pedagogico, il discorso del contatto, che insomma sarebbe soltanto un giorno sì, un giorno no, e non perderemmo la capacità di apprendere, perché ho sentito la ministra dire che ci sarebbe un calo di conoscenze, si perderebbe tante cose, insomma seguirlo da casa un giorno e seguirlo in presenza il giorno dopo non cambia niente, e coglieremo anche il vantaggio di avere metà dei ragazzi per strada. Sì. Se c'è qualcuno che mi dice ma non tutti possono arrivare, non tutti hanno gli strumenti eccetera, per la scuola non c'è scusa, perché la scuola ha avuto 6 mesi per prepararsi, diciamo, a un'ipotesi di questo genere. Per le persone, se c'è qualcuno che è particolarmente in difficoltà, quello andrà sempre in presenza. Sì. È una questione semplice. Guardi Marco, Marco, mi permetta di dire che io penso, la ministra non c'è più, penso interpretare il suo pensiero, nel senso che ho letto anche cose dette da lei come da altri del governo. L'idea è esattamente quella di fare una parte in presenza e una parte in didattica a distanza. Guardi, che molte scuole già lo fanno. Io ho l'impressione, professor Lopalco, che ci sia anche un tema di forse di incapacità di organizzarsi delle singole scuole, non tanto del sistema scolastico che dava tutta una serie di possibilità, cioè si sarebbe potuto fare, in alcuni casi proprio, in alcuni casi era impossibile, perché mancanza di docenti, per tutto quello che vogliamo, in altri casi si poteva fare e non si è fatto, eh. Ma guardi, io su questo ovviamente non intervengo, non è mia competenza. C'è da dire che, come state sottolineando, le opzioni sono diverse. Ci possono essere doppi turni, ci possono essere dei turni alternati in didattica in presenza e a distanza. È una questione di organizzazione. Spesso c'è da dire ci si imballa un po' in questioni anche di prendersi delle responsabilità, di fare magari da parte di un istituto qualcosa che gli altri istituti non stanno facendo, e quindi magari forse anche questo, no? Che alle volte fa sì che alcuni istituti siano andati avanti in maniera autonoma e veloce, altri siano un pochino più resti a prendere delle iniziative che magari poi alla fine appunto non impattano tanto sulla qualità della didattica. Sì. Scrive un ascoltatore: io insegno e assisto a didattica a distanza da anni, ormai non si pensa più in ambienti seri a didattica in presenza. Sì, ha perfettamente ragione, però innanzitutto che le cose andrebbero alternate probabilmente per questioni pedagogiche, ma dall'altra parte, e psicologiche dei ragazzi, dall'altra parte le dico che quella che abbiamo sperimentato è una didattica a distanza di emergenza, non è una didattica a distanza pensata e strutturata per essere didattica a distanza. E il grande problema è questo, cioè abbiamo preso le lezioni frontali e le abbiamo, in gran parte, poi ci sono degli esempi luminosi e meravigliosi, della didattica frontale classica e l'abbiamo trasferita sullo schermo di un computer. Non è proprio il massimo, capirà. Immagini lei, immagino faccia un lavoro che le consente anche questo, seguirsi un convegno di 5 ore interamente online. Giorgio da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Senta, una domanda, diciamo, che avrei voluto fare al ministro, ma parto dal presupposto che quando si è al vertice di comando bisogna comandare e saper comandare. Mi chiedo perché la ministra Azzolina non impugna la divisione del presidente della Lombardia, visto che è un ministro e dà la sua soluzione definitiva per lui e chi per lui? Allora Giorgio, è una buona domanda, provo a rispondere io come però la prendo come una pura interpretazione perché non sono un membro del governo, però la mia impressione è che in questo momento dal punto di vista politico il governo non abbia intenzione di andare ad uno scontro frontale con le regioni in una fase così delicata, ma voglia invece costruire un rapporto. Professor Lopalco, invece da medico, Milano dovrebbe essere zona rossa? Ma guardi, io sono abbastanza dubbioso sull'efficacia dell'instaurazione delle zone rosse come mezzo di prevenzione di questa infezione, soprattutto se la zona rossa è una zona con milioni di abitanti, cioè se è una enorme zona rossa. Sì. Non permette alla gente di entrare ed uscire, sinceramente in questa situazione ha poco senso, perché il virus è dappertutto. A Milano si sta manifestando di più, bisognerebbe intervenire di più con dei mezzi appunto di prevenzione territoriale, locali, territoriali. La ringrazio, grazie a Luigi Lopalco, che è assessore alla salute della Regione Puglia e appunto ordinario di igiene all'università, lo abbiamo ospitato spesso in questa veste nel periodo caldo della prima ondata all'Università di Pisa. C'è GR24, noi ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30, grazie a Carmelo Lauricella, regia, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia un buon fine settimana, ciao! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba, è l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio, ha quindi pieno valore legale, attivala adesso! Su aruba.it